Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Stasera è qui anche per selezionare il miglior lato B. Lei nella sua vita ne ha visti tantissimi. Cos'è che la emoziona ancora nel vederne sempre di nuovi? Per culo, dice. Ma no, cos'è che mi emoziona? Sono sempre belli. Certo, poi fra i belli si distinguono quelli più belli e quelli un po' meno belli, ma insomma è sempre una gioia degli occhi. È sempre una gioia degli occhi. La TV oggi ruba, deturpa, mina il paesaggio della coscienza di tutti. Ci toglie le radici e le fondamenta. Tesoro, vai pure che Tino deve darti un'occhiatina. Vai, ecco, grazie. Puoi andare, grazie. Volti ricondotti a maschere dalla chirurgia estetica. Corpi gonfiati a dismisura come fenomeni da baraccone di un circo perenne. Chi siamo? Cosa vogliamo? Come mai tutte le donne d'Italia non scendono in piazza protestando per come veniamo rappresentate? Perché evidentemente hanno anche altro da fare. L'argomento di stamattina è molto semplice, lineare, basico. Non ammette dubbi, non ammette assolutamente equivoci. Questa mattina parliamo del sedere. Potrei dire parliamo del culo, ma è ormai logoro, stantio, quest'usare il turpiloquio per far vedere che si è allineati al linguaggio comune. Parliamo del sedere. Parliamo del sedere umano. Parliamo del sedere umano come accessorio della seduzione, accessorio dell'attenzione, sia esso maschile o femminile, ma soprattutto femminile nella fattispecie della notizia. Oggi sono esplosi in tutti i giornali ampie e dettagliate articolate polemiche sul gesto trasgressivo, ma anche molto paraculo, e il senso qua ci sta tutto, di Paola Bacchiddu, che è portavoce della lista Tsipras, che ha messo su Facebook la foto di lei inginocchiata in un bikini, una foto normale, come possono fare ragazze, signore, signorine, bambine, attempate nonne. Quando si va al mare si sta in barchetta, ci si appoggia sulla sponda della barchetta e si fa un gesto sbarazzino, qualcosa che assomiglia all'atteggiamento pecorino, ma non è proprio quello, è qualcosa che in fondo ammicca, ma sorride e via dicendo. Essendo la signora, diciamo, portavoce di una lista di sinistra, fa qualcosa di totalmente, radicalmente, cosmicamente avverso a quello che è il luogo comune più percorso e più logorato, che sia soltanto la destra che usa il corpo femminile come bieco oggetto di desiderio maschile, quindi lo sfrutta, lo investiga, lo indaga, lo accarezza con lo sguardo lubrico. Infatti avete sentito la copertina, Tinto Brass, che è il più noto culomane che esista alle nostre latitudini, che sulla sua ammirazione esasperata, cosmica, del posteriore femminile ha posto tutta la sua carriera, ma ha posto anche delle fulgide eclissi di notorietà a attrici come Claudia Cole, che su questo rappresentò, diciamo, la maggior fonte di abbassamento di idiotrie di una generazione di maschi che va dagli anni 90 al terzo millennio. Questo gesto di questa signorina, che ha subito suscitato in rete una grande attenzione, ci sono state le persone che hanno detto: come tu tradisci una sorta di vocazione, tu mostri il tuo sedere, quando mostrare il sedere fa parte di tutta un'altra categoria di donne, delle donne che ormai sono soggette, sono schiave, sono succubi del desiderio maschile, quindi si mostrano le loro doti callipige per compiacere gli uomini, quindi ci sono tutte le varie minetti nel loro defilé, olgettine, signorine, le ragazze della televisione su cui sono veramente scese in piazza le donne. Abbiamo toccato il ridicolo in questo paese quando tonnellate di donne di tutti i tipi scesero in piazza per protestare contro l'immagine della donna in televisione. In realtà c'era un motivo politico ben preciso, era soltanto uno, diciamo, il recinto di contenitore di chiappe che si voleva colpire, ma in realtà in generale si attaccò tutto il mondo dei media che mostrava una donna che non era quella. Una donna di sinistra capovolge completamente questa equazione. Dice, lo fa naturalmente finalizzato al consenso della sua lista, non so quanto le sia servito, comunque oggi è in prima pagina di tutti i giornali, la sua famiglia potrà andare fiera di lei perché diranno tutti, non so se abbia figli, abbia marito, abbia compagni, diciamo, vedi, finalmente è diventata un personaggio. Ma io non trovo nulla di scandaloso, nulla di lubrico, non è che questa mia chiacchierata cele e nasconde il desiderio di fare una morale. A me diverte, interessa, io guardo, osservo, ma questa mattina non posso fare a meno di porre una domanda: ma da che parte sta il sedere? Qual è il senso, qual è il verso, qual è la svolta del sedere? Il sedere sta a destra o sta a sinistra? O sta dove sempre ho pensato fosse collocato, sin dalla prima e tenera fanciullezza fino all'età ormai in cui il capello sta incannutito? Pensavo il culo stesse al centro. Qui con noi c'è Miriam Leone. Non è d'accordo con chi parla di una mercificazione sempre più eccessiva del corpo di noi donne, insomma della donna? Assolutamente no, anzi credo di aver potuto dimostrare il contrario, perché il corpo in questo caso è stata espressione di passione, di pensiero, perché la donna gestisce il proprio corpo con la testa. 800 24 00 24, ascoltatrici in ascolto, voi che state lì a rimestare il sughetto, voi che state lì a buttare dentro il soffritto, prego, datevi una risposta in questa mattina, ve ne prego, perché sono veramente molto interessato. Ma non lo dico con secondi fini, non lo dico per portarvi a discutere di argomenti lubrichi, non lo dico per guairismo auricolare, un controsenso, ma è così quando uno sta alla radio e gli dicono tu sempre indugio su certi argomenti, lo dico perché mi interessa veramente. Come voi sentite che sia venuto il momento di gestire il proprio corpo? Come voi vi sentite classificate? Vi sentite donne che appartengono ormai alla generazione di persone liberate, affrancate, statisticamente considerate solo per il fatto che avete deciso che vi amministrate finalmente il vostro corpo come volete voi? È anche giusto, è anche vero, ma come si fa poi a non incorrere in quella sorta di mannaia censoria? Vi mettete il perizoma, vi mettete il filo interdentale, mettete la mutanda di cotonina casta e ascellare, e questo determina il vostro essere classificato anche da un punto di vista di visione del mondo? O semplicemente fate esattamente quello che vi sentite di fare? Se andate al mare vi fate la foto in costume da bagno, non siete né di destra né di sinistra, non siete sgualdrine, non siete figli di Maria, siete semplicemente le donne che hanno comunque consapevolezza che l'avvenenza abbia comunque un valore sul mercato, e quindi mettete anche l'avvenenza sul piatto della vostra esistenza. Guardate che il social networking, e so che molte persone che mi ascoltano ogni giorno postano tante foto di se stesse o di se stessi, perché guardate che la reazione che c'è stata in rete alla foto della signora Bacchiddo inginocchiata in bikini, foto, ripeto, castissima, ma naturalmente contraddice un punto di vista, è stato che un'infinità di uomini e donne di tutti i tipi, di tutte le ideologie, di tutte le maniere di pensare e di ogni visione della vita hanno postato loro foto in atteggiamenti simili. Diciamo che il lato positivo è stato lo sdoganamento totale dell'egemonia del sedere. Il sedere dove è posto, il sedere dove è messo, questo accessorio che ha una sua ragione funzionale ma in sé ha un'infinità di significati simbolici, può essere collocato nella sua possibilità di essere esposto, mostrato, accennato, circoscritto da una sorta di vestimento che ne qualifichi e ne aumenti le qualità, o che lo nasconda o che lo cela, può essere definito come una scelta ideologica. Sì, perché poi naturalmente oggi hanno tutti molto cavalcato la scelta iconografica di questa signora, e naturalmente ci sono le collazioni, ma c'è anche un senso in questo. Per un paio d'anni non si è altro fatto che sottolineare, lo so che molte volte sono stato io stesso chiamato a parlare, a discutere, a dire la mia, sul fatto che improvvisamente ci si sia resi conto che la televisione, soprattutto perché la televisione naturalmente è la scaturigine di ogni male, abbia totalmente deformato quella che è la dignità della donna, mostrandole soltanto principalmente il lato B come segno dell'abiezione, come luogo dell'attenzione satanica, il vas nefandum, come dicevano i confessori di antica data, cioè il luogo nefando che, se solo diventa il centro di un'attenzione, improvvisamente si aprono le porte dell'inferno. Ottavio, come la pensa? No, io volevo solo fare un'osservazione, che è questa: non è vero che solo la destra utilizzi il corpo femminile in questo senso, ma il settimanale L'Espresso, molti si ricorderanno che anni fa, sistematicamente includeva nelle copertine nudi femminili abbastanza anche un poco a cavolo, cioè diciamo... Che non c'entravano nulla, non erano finalizzati a notizie. Come elemento di richiamo, così... Cioè, poi vedi Ottavio, lei ritorna, fa ancora un passo indietro rispetto a quello che stamattina volevo dire. Questa era la polemica che andava molto in voga un anno e mezzo fa, quando, diciamo, le donne organizzate, se non ora quando, se la prendevano con la TV, soprattutto di Berlusconi, e dicevano: ma come, anche voi? E citavano pagine intere di Repubblica, dell'Espresso, c'erano le donne nude. La vedo un po' passata questa cosa. È chiaro che quella era una pretestuosità motivata da una necessità politica, comunque, di portare il più possibile benzina sul fuoco del grande corruttore, ma allo stesso tempo è logico che se ci fermiamo un attimo, diciamo così, dette a bocce ferme, e tutti hanno usato comunque il corpo femminile come elemento attrattivo associato a prodotti, fuori dal contesto, non c'entra nulla. Una donna col sedere di fuori che in mano magari ha un antigelo per il motore, non c'entra nulla, però funziona. Daniela, buongiorno, finalmente. Buongiorno. 800240024, vorrei delle signore, per favore, eccomi. Buongiorno. Il suo punto di vista? Io, il mio punto di vista è questo. Dove sta il sedere? Io sto a Viareggio. Ma il sedere dove sta? Il mio sedere sta nel centro, e se è fatto bene va fatto vedere. E se no che serve? Io sono del parere che ognuno è libero di fare quello che vuole. Poi tutto questo buonismo, perbenismo, il sedere di sinistra, il sedere di destra, non c'è sedere di sinistra e sedere di destra, c'è sedere e basta. Quindi se avessi un fisico che potessi mostrare, andrei al mare, visto che sto a Viareggio, e mi mostrerei. Molto volentieri, troppo veramente. Ecco, secondo lei, Daniela, perché a un certo punto, diciamo che la tradizionale lettura era: le donne per bene si nascondono, si velano e non si mostrano, però in realtà in certe occasioni sociali abbiamo epoche ultrapuritane in cui le donne si vestivano, anche se non andavano in giro spogliate, in maniera di mostrare, evidenziare, valorizzare il più possibile il loro fondoschiena. Ma ricordo le foto della mia fanciullezza, anni 50 e 60, era tutto un tripudio di mostrare i fianchi, naturalmente non spogliate, perché da un certo punto in poi questo è stato attribuito a una sorta di deprezzamento della donna. Ma su una scala di valori, rispondo a questa domanda poi mandiamo il traffico, secondo lei mostrare, come sta mostrando lei, saggezza, cultura, intelligenza, non ha lo stesso valore che mostrare, viva Dio, il fatto che uno ha delle attrattive anche fisiche? Certo, è ovvio che se uno ha le attrattive fisiche e ce l'ha, perché nasconderle? Che senso ha? Non è mica una cosa, non è mica vero, la bella è poco intelligente e non ci incassa niente la bellezza. Chi è bello e lo deve far vedere, lo faccio vedere. Cioè, e chi non è bello, mi dispiace. Io parlo una che, insomma, non ho 20 anni, quindi non mostro. Quindi, però, quindi vale anche il fatto che la politica possa essere fatta con il posteriore. Come gli pare, ognuno deve usare i mezzi che vuole e che ritiene giusto, come gli pare allora. Chi vuole ci mette la testa, chi vuole ci mette il sedere. Esatto. E ce lo rimette pure. Melog. Cronache meridiane. Ma avete contribuito anche voi a dare questa immagine sbagliata alla donna. Cosa dice? La donna non è un culo, la donna credo che sia cuore, testa, intelligenza. Quindi voi avete contribuito a dare questa immagine. La polemica sull'attribuzione ideologica del fondoschiena non è proprio di oggi, lo vedete, questo era Castelli. Allora mi pare ministro, da Santoro, arrabbiatissimo, mi sembra di ricordare, vado a braccio con Concita De Gregorio, che da una parte appoggiava il movimento delle donne, se non ora quando, ce l'avevano con la cattiva televisione che mostrava in maniera lubrica i posteriori, poi aveva fatto una locandina di lancio della Festa dell'Unità dove c'era una signorina con degli shorts molto attillati, con un bel sedere in vista, con l'Unità infilata in tasca. Cito a braccio, poi mi sembra di ricordare che sia così. Vorrei rispondere all'ascoltatore William, che mi dice: che pochezza questa trasmissione, quanto tempo buttato, ci sarebbe bisogno di cultura. Ecco, cosa significa cultura? Si va in questo momento appoggiare rispetto a qualcosa che riguarda l'attualità, la carne viva del nostro paese, non so, potrei leggere una poesia di Leopardi, quanto caro mi fu quest'ermo colle, qualcosa del genere, cosa c'entra, perché lui tira fuori dei cadaveri. Cultura è questa, stiamo osservando in questo momento a tempo reale un fenomeno molto importante nel nostro paese. Il nostro paese, improvvisamente, l'ideologia e la politica era basata su concetti concreti, reali o ideologici, nel senso che si riferivano a valori assoluti. Si è dibattuta per un paio d'anni su un aspetto propriamente moralista, sembrava quasi il manuale di un confessore. Quanto fosse lecito, cosa fosse lecito, se fosse lecito, improvvisamente siamo diventati tutti moralisti. E si è stabilito un principio condiviso da tutti che improvvisamente il pensiero positivo, quindi il pensiero in linea con lo spirito dei tempi, era un pensiero per le donne imbraghettate, coperte, con una sorta di imperativo categorico: non devi farti vedere, non devi mostrarti, se sei bella dimenticatelo, di essere soltanto intelligente, culturalmente accettabile. È una immagine bieca, bislacca, molto volgare, che invece le donne vede trasformate soltanto in canotti di gomma da mostrare per la bavetta degli uomini. Ci sarà pure una via di mezzo, ci sarà pure fra questi due estremi che sono stati così fortemente, radicalmente stravolti, e non dimentico, siamo in campagna elettorale, quindi anche il sedere viene strumentalizzato per definire in maniera serena qual è il lecito diritto di una donna di usare anche la propria femminilità senza essere additata, non più come una volta come donna perduta, donna leggera, ma come donna e biecamente asservita al mondo maschile. Lisa. Buongiorno. Dunque, io la chiamo perché è una dicotomia questo che vivo sostanzialmente da quando so di essere donna. E quando se n'è accorta? Già intorno ai 18-19 anni. Ah, fino a 18 anni era inconsapevole della potenza del suo sesso? Sì. Nel senso che vivevo, non ero cosciente di poter essere carina, ecco, sostanzialmente. Ma la tenevano isolata dal mondo? Ma era chiusa in un convento? No, era sostanzialmente come io mi vedevo, e questo secondo me... Ah beh, quindi aveva un problema di percezione di sé, non si percepiva bravissimo come donna. Vabbè. Esattamente. Guardi che accade anche ai maschi, si figuri. Posso immaginare. Dopo no, poi vengono sempre delle anime generose che ci ridanno fiducia nel nostro essere maschi. Esatto, è vero. E a lei come è accaduto invece? No, a me è semplicemente accaduto osservando me stessa e sostanzialmente sentendomi indipendente, forse il compimento della maggiore età ha aiutato in tutto questo. E quindi qual è la dicotomia? La dicotomia è il fatto che essere intelligenti non è necessariamente contrapposto all'essere carini. Ma non è nemmeno indispensabile essere intelligente, perché una donna può anche non esserlo, come anche un uomo, no, può avere altre qualità. Non trovo che l'intelligenza sia una qualità assolutamente indispensabile per essere considerato degno di essere frequentato. Assolutamente, questa è l'altra cosa che sostengo io, non occorre essere dei geni per poter essere apprezzabili in ogni caso. Sono persone gradevolissime, vale anche... piacevolissime, tenerissime, che uno vorrebbe sempre accanto perché ti aiutano a vivere meglio, che magari non sono molto intelligenti ma hanno una sensibilità che non hanno le persone intelligenti. Esatto. E quindi lei cosa ha scoperto improvvisamente? Di avere un culo? Quello, di avere anche quello sostanzialmente, ma soprattutto di potermi permettere di vedermelo io e eventualmente farlo vedere anche a qualcun altro. E se no che serve, guardarselo da soli, a parte che viene il torcicollo, ma non è che alla fine gratifichi. Ma di andarne anche fiere, che non significa esibire come essere in vetrina, ma non nascondersi. Non nasconderlo a se stesso, quindi non nasconderlo agli altri, se fa parte del mio modo di vestirmi o se ne vado fiera semplicemente. Qualcuno perché no, dovrebbe mortificarsi e nasconderlo, visto che è qualcosa che crea attorno un alone di benessere? Perché in effetti qual è il vantaggio di una persona gradevole dal punto di vista dell'occhio, della figura, della postura? Non è detto essere per forza bella, gradevole, la gradevolezza è qualcosa che secondo me si valuta con dei criteri assolutamente soggettivi, quindi lei può essere gradevolissima e quindi fa del bene alle persone che sta attorno. Ecco, qual è la maniera per cui possa elargire il tesoro della sua gradevolezza senza sentirsi additata come qualcuno che usa delle bieche maniere per compiacere il maschio? L'importante, io sostengo sempre, che venga fatto con eleganza. L'eleganza non è necessariamente nascondere, certo, anzi. L'eleganza non è delle ragazze del Grande Fratello, non è delle Miss Italia. L'eleganza è un'altra cosa, è qualcosa che non si definisce. Grazie. Marta, buongiorno. Buongiorno. Posso parlare? L'ho chiamata per questo. Allora, io sinceramente, a me non importa nulla di come della donna, oggetto, eccetera. Io mi chiedo, ma voi maschi non vi sentite umiliati a essere trattati? Siete voi che siete trattati come oggetti, perché la donna vi mena per il naso facendovi vedere il sedere. Vabbè, io non è che mi sento umiliato da questo. Dico, cioè, parlo per me, non sono rappresentativo di una categoria. No, non vi sentite guardoni e no, cioè accalappiati da queste cose? A volte abbiamo la consapevolezza di seguire un fascino che non riusciamo a controllare, a contenere, prendiamo una scelta, accettiamo la follia dell'estasi e ci lasciamo andare, ci rendiamo conto che è qualcosa che ci prende, ma è come bere, anche lei quando beve mezza bottiglia sa che comunque perderà controllo su se stessa, ma in fondo da gusto uno lo fa. Non lo so, io mi sentirei molto più accalappiato da una persona astuta, furba, intelligente, che mi mostra la realtà diversa da quella che è. Seguire la scia fascinosa di un bel sedere, beh sì, può capitare. Ci sentiamo domani.